Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Rimini, 10 novembre 2008. Quattro ragazzi danno fuoco ad un clochard. Non so cosa mi abbia fatto più male, se il primo colpo dietro la schiena o quello che mi ha rotto lo zigomo. A ben pensarci, però, non posso nemmeno dire quale sia stato il primo colpo. Ricordo nettamente di essermi svegliato come dopo un incubo e di aver aperto gli occhi senza riuscirci. Erano già troppo pesti. Così non li ho nemmeno visti in faccia. Ho solo sentito le loro voci. Erano quattro, credo. In effetti, qualcosa di ferro deve avermi colpito un orecchio, perché il fischio che è partito dopo il tonfo sordo non poteva essere quello di una sirena della madama, e meno che mai quello dell'ambulanza. L'unica cosa che sentivo era il mio cuore, che invadeva con i suoi battiti disperati tutto il mio corpo, o perlomeno le parti non ancora troppo doloranti. Ricordo il sapore del ferro e quello dell'asfalto mischiato al mio sangue, e soprattutto il senso di smarrimento che mi faceva affogare in un'angoscia violenta, senza ritorno. Forse però quello che mi fece più male furono le loro risate. Quelle le distinguevo bene, alte, stridule, quasi invasate. Erano quattro iene che ridevano intorno a una carcassa, la mia. Uno deve avermi pisciato addosso perché ho sentito qualcosa che mi bagnava le gambe. Gli altri continuavano a ridere. Io gridavo, ma probabilmente non riuscivo a cacciare fuori niente di più di qualche rantolo, perché nessuno arrivava a darmi una mano. Non era piscia, era benzina. Il fuoco avvampò molto più velocemente dei colpi che mi avevano ridotto un mucchietto di ossa inermi. Giuro che se avessi potuto mi sarei divincolato. Avrei cercato di correre, scappare e mi sarei strappato di dosso tutti gli stracci che usavo per coprirmi di notte. A novembre, dormire sulle panchine non è facile. Ma non ci riuscivo. Ero fermo e bruciavo. Loro, le iene, ridevano e scappavano, mentre io diventavo un tutt'uno con la panchina che mi aveva fatto da casa e da stanotte anche da bara. I denti me li avevano lasciati intatti, almeno mi avrebbero riconosciuto da quelli. Non ricordo bene, ma potrei giurare che uno spasmo involontario del mio volto in fiamme disegnò una specie di sorriso. Ride bene chi ride ultimo. Andrea Ferrari, in libreria con Milano Muta, Eclissi Editrice, 273 pagine, 12 euro. Per riascoltare e scaricare tutte le storiacce del sabato e della domenica, www.radio24.it, alla voce podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog. Ciao a tutti, al prossimo weekend!